Ciao amici, questa fantastica baracca che siamo io e lui si chiama Frank Sinutre. Questo è fatto in casa, non è compero come le cose che si trovano al mercato. E cosa posso dire? Che adesso andiamo avanti. Grazie all'Ostia Palusa, grazie a Davide che ci ha fatto i suoni, è stato molto molto gentile. E adesso ho dei tempi incredibili, nel senso che sono lentissimo, ma sono sicuro che avete molta pazienza voi. E poche luci sopra perché poi non reagisse. Spiego una cosa. Quando vuoi far partire l'altra canzone, devi per forza spegnere tutti i controller. Adesso l'avete imparato tutti, e così lo sappiamo, e lo potete fare anche voi. Sì, potete venire insieme, tutti quanti, cazzo. Venite, venite. Adesso vediamo se funziona. La rifacciamo, Dai, si può, vero? Si può. Someone will never really know what love is. Thank you. se pensa, devo essere pazzo. Quello che non riesce a capire è che la società è esattamente come lui. Un interesse particolare nelle grandi sciagure, nelle catastrofi. Guerre, carestie, alluvioni e terremoti rispondono a bisogni ben precisi. L'essere umano vuole il caos. In realtà gli è necessario. Depressioni, conflitti, sommosse, omicidi. Tutto questo terrore. Tutto questo terrore. Siamo irresistibili a tratti da Siamo fatti tutti. Siamo fatti. E la cosa ci piace. Certo, i media cercano di mettere una maschera triste, queste cose, dipingendole come grandi tragedie umane. Ma sappiamo bene che il compito dei media non è mai stato quello di aiutare i mali del mondo. Il loro compito è convincerci ad accettare questi mali e abituarci a combattere con essi. Che ha in mano il potere ci vuole semplici spettatori passivi. Hai capito? E non ci hanno dato nessun altro diritto di scelta, a parte un cardinale puramente simbolico e partecipatorio atto del mondo. Vuoi curativo di destra, vuoi curativo di sinistra. Credo sia arrivato il momento di incanalare tutte le mie inadeguatezze e le mie insoddisfazioni negli attuali piani sociopolitici e scientifici e di far sentire la voce spinta. Eccezionale. Sunset with Thank you. Thank you. Oh, delle volte viene meglio, delle volte viene anche peggio, pensate. Però inficiano le sette ore di viaggio che fanno veramente cagare. Io verrei ad abitare qua, cazzo. Grazie, ciao.